Da dove provengono i giochi a cui giochiamo quotidianamente? Il più delle volte la risposta a un simile quesito non esiste. Il più delle volte, in ogni caso, la risposta non ha una grande importanza. Al di là dell'indubbio fascino del perdersi tra le nebbie del tempo, la verità è che il gioco deve la propria importanza alla propria costante attualità. Il gioco continua imperterrito a svolgere la sua funzione fondamentale di socializzazione e di integrazione. L'argomento della puntata di oggi non è un gioco in particolare, ma una famiglia di giochi, la famiglia dei Mancala. Si gioca a Mancala in gran parte dell'Africa, gran parte dell'Asia, in Indonesia e anche in Europa. Esistono versioni contemporanee del gioco, come il Kala nordamericano, e libri e articoli di riviste specializzate che trattano dal punto di vista matematico le strategie e le mosse del Mancala. Ma allora, da dove vengono questi Mancala? Chi è che ci ha giocato per primo? E perché giocare a Mancala è diventata una pratica così diffusa? Visto che la risposta alla domanda sulle sue origini è come al solito incompleta e insoddisfacente, in questa puntata di Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo, cercheremo di concentrarci sulle ragioni del suo successo. Oluwa Olodumare. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo. Benvenuti alla puntata odierna di Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo, su Radio 110, la web radio dell'Università di Torino. Io sono Francesco e quest'oggi, come avete sentito dall'introduzione, parliamo di Mancala. Ebbene, i Mancala sono una famiglia di giochi giocati in diversi continenti e da differenti etnie in tutto il mondo. Nella puntata odierna vogliamo cominciare parlandovi di come si costruisce l'equipaggiamento per giocare a Mancala, più esattamente nella versione chiamata Wari o Oware, la più giocata al mondo. Esistono tornei di questo gioco in Ghana, dove è considerato gioco nazionale, in Uganda, ma anche in Inghilterra, nelle Barbados, in Francia e in Catalogna. Abbiamo intervistato, per parlarci di questo gioco, il dottor Nino Vessella. Il dottor Nino Vessella, oltre a essere uno studioso di lingua e letteratura swahili, è il fondatore di una onlus che si chiama Changamano e opera in Tanzania, ed è autore di uno dei due libri che parlano del gioco del Bao, la variante swahili del gioco del Mancala, il cui titolo è Il libro quasi completo sul gioco del Bao. Per cominciare, il dottor Vessella ci illustra le caratteristiche del Mancala rispetto a tutte le sue varianti presenti nel mondo. I Mancala possono essere considerati una nuova famiglia perché hanno due caratteristiche fondamentali in comune. E una è il materiale che si usa per giocare, quindi tutti questi giochi utilizzano semi, sassolini, conchigliette, in alcuni casi addirittura le feci essiccate di animali come per esempio capre, cammelli, eccetera. Insomma, qualsiasi piccolo oggetto tondeggiante. E un certo numero di buche regolarmente sistemate in due o più righe, ricavate per terra su una tavola di legno o addirittura su una roccia. E l'altra caratteristica in comune è il movimento. In tutti i giochi di Mancala si distribuiscono i semi nelle varie buche, secondo determinate regole ovviamente. Appunto, e le differenze sono appunto intanto le regole di distribuzione dei semi e il numero di buche per ogni gioco. Quindi ci sono giochi che hanno due file per sei buche, ogni fila costituita da sei buche, altri quattro per otto, per sei, dipende da, appunto, dal tipo di gioco. E poi la distribuzione dei semi. La distribuzione dei semi può essere sia in senso orario che in senso antiorario. In alcuni si distribuiscono solo nel proprio campo, in altri invece si distribuiscono in tutta la tavola. E poi la cattura dei semi avversari. La cattura dei semi avversari può avvenire in vari modi. In alcuni giochi, per esempio, i semi catturati vengono rimessi in gioco. In altri invece vengono tolte dal gioco e sono appunto veramente catturati e determina poi il vincitore, il numero dei semi catturati determina il vincitore. Nell'altro caso in cui i semi vengono messi in gioco, il vincitore è quello che per esempio, è sempre questa regola però varia da gioco in gioco, per esempio impedisce all'avversario, riesce a impedire all'avversario di continuare a giocare. E possibile fabbricare a mano una tavoletta per il Wari con dell'argilla. Con l'aiuto di un mattarello, stendere uno strato di argilla bagnata su un piano rettangolare, della misura di 10 x 40 cm. Tagliare l'argilla in eccesso e segnare, con l'aiuto di un coltello e di un righello, lo spazio per i buchi. Prendere una pallina da ping pong e fare due piccoli buchi, opposti fra loro, su ciascun emisfero, per evitare problemi di aspirazione. Con la stessa pallina, premere sull'argilla bagnata per formare 12 scomparti, 6 per lato, formando due colonne. Ai vertici di queste colonne, formare altri due scomparti, che rappresenteranno i due depositi. Assicurarsi che l'emisfero della pallina, a contatto con l'argilla, sia bucato a dovere, così che l'altro foro possa liberamente soffiare fuori l'aria. Lasciare asciugare e indurire per almeno un giorno. Dopo si può abbellire la scacchiera passandovi una mano di colore e, quando ben asciutta, una di vernice. Intanto possiamo dire subito che non è una metafora di una battaglia. Non si combatte l'uno contro l'altro, anzi, è più un gioco proprio per socializzare e nessuno si vanta di aver battuto l'altro, o meglio, si vanta per la propria abilità, ma non perché ha sconfitto un avversario, un nemico, insomma. Quindi forse questo è quello che si può rispecchiare la cultura dei paesi in cui viene giocato. Poi le abilità, diciamo che l'abilità fondamentale è di tipo matematico, o meglio, più che matematico, forse si potrebbe dire aritmetico. Cioè bisogna saper contare bene i semi che si vogliono distribuire in modo da calcolare il numero di giri che si fanno e prevedere il più possibile lo sviluppo del gioco, come per esempio per gli scacchi. Però nel caso del Baolak Swahili, che è quello più interessante, più strategico di tutti i mancala, addirittura pianificare una strategia di gioco spesso è più difficile che nel caso degli scacchi, perché nel caso degli scacchi aiuta molto anche la memoria visiva, no? E invece nel caso dei mancala bisogna proprio ricordarsi i numeri, quanti semi si hanno e come poi sarà la situazione alla fine della distribuzione dei semi, quindi non è semplice. Poi per quanto riguarda la cultura, forse è quello che abbiamo detto prima, io non posso dare una risposta precisa perché non sono un antropologo, però forse è interessante far notare che proprio per il tipo di ragionamento che bisogna fare, forse può essere un'ulteriore prova per dimostrare ai razzisti che questi non sono popoli inferiori a noi, insomma. Bim bum bale giù. Siamo su Radio 110, questo è Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Stiamo parlando della famiglia dei Mancala. Abbiamo ascoltato la voce del dottor Nino Vessella, che ci ha spiegato quali sono le abilità richieste al partecipante per giocare al gioco del Bao. In precedenza vi abbiamo presentato una scheda che ci ha raccontato come si costruisce una tavoletta per giocare al Wari, una delle varianti del gioco del Mancala. Questo tipo di scheda, che vi abbiamo presentato anche la scorsa puntata parlando del Pacisi, non rappresenta soltanto uno specchietto divertente, un'informazione in più sull'argomento della puntata. Man mano che avremo parlato di diversi giochi, infatti, cominceremo a renderci conto di come il mondo dei giochi sia soprattutto un universo di materiali e di operazioni manuali da eseguire perché la maniera in cui si gioca un determinato gioco si possa dire corretta. I primi gesti che si realizzano per giocare a un gioco è la costruzione del piano di gioco e del resto dell'equipaggiamento. Abbiamo visto che la costruzione del tabellone del Pacisi può essere un'operazione articolata. Bisogna procurarsi il tabellone con tutte le caselle regolari e le caselle rifugio. Poi sono necessarie le pedine di quattro colori diversi. Infine una manciata di dadi, che possono essere delle conchiglie oppure dei dadi oblunghi. Se volessimo considerare un gioco estremamente elementare, potremmo fare l'esempio del gioco della campana, in cui basta un gessetto, una pietra e un terreno abbastanza piano per poterci giocare. Nel caso del Wari, invece, è necessaria dell'argilla, che è un materiale di facile reperibilità e piuttosto comune anche in Africa. Addirittura, volendo, si potrebbe giocare a Wari per terra. Basta bagnare il terreno e formare le buche con un oggetto di forma sferica, per esempio un uovo, e procurarsi sassolini per giocare al gioco, per esempio i fagioli, i patolli, di cui abbiamo parlato nella prima puntata. Presentiamo adesso le regole del gioco del Wari per dare un esempio della sua complessità e ricchezza di gioco, di contro alla sua semplicità nella preparazione. La tavoletta per giocare a Wari contiene 6 cavità scavate nell'argilla o scomparti per ognuno dei lati lunghi e una cavità in ciascuna delle due estremità, alla destra e alla sinistra, adibite a ricevere i pezzi catturati. Ognuno dei 12 scomparti deve contenere all'inizio della partita 4 oggetti di forma uguale, come noccioli di frutta, semi, biglie, eccetera. Il primo giocatore leva tutti i pezzi contenuti in uno dei 6 buchi dalla sua parte e uno ad uno li mette nelle cavità seguenti in senso antiorario. Secondo la posizione del buco da cui è partito per distribuire le palline, queste possono risultare tutte o in parte negli scomparti del suo avversario. Scopo del gioco è quello di catturare i pezzi nei buchi del suo avversario. Questo si verifica quando l'ultima pallina sistemata cade in un buco avversario che ne contiene soltanto una o due, per un totale di 2 o 3 palline. Le palline sono catturate. Non si può mangiare se non con l'ultima pallina distribuita. Quando l'ultimo pezzo cade in una cavità avversaria, in cui al momento si trovano 2 o 3 palline, colui che cattura prende queste palline e le mette nel buco all'estremità che è la sua destra. Quando un giocatore ha catturato, può continuare a prendere i pezzi dello scomparto che gli è proprio davanti, come quelli dei buchi degli scomparti seguenti, se i buchi sono dalla parte del suo avversario oppure se il buco o scomparto contiene il numero prescritto di palline che si possono catturare, cioè 2 o 3. Il gioco ha termine quando tutti gli scomparti dalla parte di un giocatore sono vuoti e tocca a lui giocare. In Tanzania, che è un paese che conosco di più, io personalmente non ho mai visto o sentito cose che collegano il gioco a mitologie varie, leggende o racconti. Nella letteratura swahili, nei romanzi e così via, spesso ho incontrato situazioni in cui si usava il bao per la divinazione. Però poi invece in altri posti, secondo la letteratura sui Mancala, in altri posti, però sottolineo sempre che si tratta sempre di speculazione di chi ha scritto queste cose sul gioco, e in altri posti, per esempio il Mancala faceva parte di un rituale primaverile della semina, quindi il risultato che veniva visto come una previsione del raccolto. In altre zone il Mancala rappresenta il mondo, i sassolini sono le stelle e le 12 buche, qui stiamo parlando del Mancala 2x6, sì. Le 12 buche sono i mesi dell'anno e addirittura la tavola viene posizionata in modo tale da rappresentare il movimento del sole, quindi i giocatori sta uno con le spalle al nord e l'altro con le spalle al sud, in modo che la tavola vada da est a ovest. In bomba! Siamo su Radio 110, la web radio dell'Università di Torino. Il programma è Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Avete ascoltato la scheda sulle regole del gioco del Wari e la voce di Nino Vessella che ci parla dei Mancala e più precisamente del gioco del Bao, cioè quella giocata nell'Africa orientale, Kenya, Tanzania, Uganda. In particolare il dottor Vessella ci ha parlato della presenza del Bao e più generalmente nei Mancala nella letteratura e nella mitologia nei paesi dove viene giocato. Tornando al discorso precedente, stiamo scoprendo un po' alla volta come il Mancala sia un gioco dalla preparazione relativamente semplice, ma dalle regole molto articolate e raffinate. A tal proposito, per questa puntata, presentiamo una scheda particolare che presenta degli esempi di strategia nel gioco del Wari per approfondire il discorso sulle regole e per far capire qual è il livello di complessità del gioco. Ma prima ascoltiamo la voce del dottor Nino Vessella, autore del volume Il libro quasi completo del gioco del Bao, con il quale abbiamo parlato di Mancala e di Bao in rapporto alla divinazione, al gioco d'azzardo e più in generale al caso. No, con la divinazione è praticamente quello che, a cui ho già accennato prima, dipende il risultato del gioco, determina diciamo, la profezia. Si gioca a Bao prima di un evento particolare e se si vince allora anche l'evento sarà positivo, il risultato dell'evento sarà positivo. E se si perde ovviamente l'evento avrà un risultato negativo. Diciamo che questo è il collegamento con la divinazione. Per quanto riguarda invece il gioco d'azzardo, allora, il gioco d'azzardo è praticamente basato proprio sulle puntate, per esempio un poker, dubito che si possa giocare senza il denaro. Nel Bao no, non esiste proprio, cioè si gioca e basta, senza mettere niente in posto. Ovviamente si può anche giocare per vincere qualcosa, per esempio a me è capitato proprio di giocare a Bao e alla fine mi hanno chiesto, beh, hai perso, ci paghi da bere. Vabbè, ma questo sì, ci può anche stare, diciamo. Si può fare, sì, ma si può fare con qualsiasi gioco, questa, sì. Questo no, cioè non è una peculiarità del Mancala, insomma. Il Mancala è proprio scollegato da qualsiasi tipo d'azzardo. Inoltre l'azzardo significa anche casualità, no? Nel Bao non c'è assolutamente nessuna casualità, dipende tutto dall'abilità del giocatore. Sì. Non si vince per caso, o meglio, se non si sa giocare si vince per caso. Sì. Ma i giocatori esperti vincono perché sono bravi, non perché... Sì, non c'è una... diciamo così, una situazione in cui queste palline possono finire a caso nelle buche, no, come possa essere un tiro di dadi o una distribuzione delle carte, non c'è nulla di random, diciamo, è tutto abbastanza stabilito. A caso. Sì. Devi contare. Quindi, e prevedere le mosse dell'avversario. Quindi si riavvicina un po' agli scacchi come tipo di gioco, sì, nel senso che le informazioni sono tutte in linea di massima, tutte note ai giocatori, non ci sono informazioni ignote. Non c'è niente di casuale. In bomba! Per giocare bene al Wari bisogna fare molta attenzione alla quantità di pezzi che stanno in ogni cavità dell'avversario e ai suoi scomparti più vulnerabili, specialmente quelli che contengono una o due palline. Anche un buco vuoto può essere attaccato se l'avversario possiede più di 11 pezzi in uno dei suoi buchi. Uno scomparto che contiene solo una o due palline è minacciato quando un buco dell'avversario totalizza lo stesso numero sia di palline che di buchi che esistono fra i due. Questo pericolo può essere avvertito contando contemporaneamente sia la quantità di palline contenuti in ogni scomparto dell'avversario, sia il numero di buchi che separano questi da quello minacciato. Si è in una posizione di forza quando si minaccia il contenuto di parecchi scomparti avversari. Si può difendere in vari modi. Il difensore può spostare uno dei suoi pezzi unici in un altro buco, oppure può mettere un'altra pallina in uno dei buchi avversari che sta minacciando i suoi. O ancora, il giocatore può scegliere di non difendere i suoi pezzi in pericolo, ma di escogitare un piano di contrattacco. Uno scomparto che contenga più di 11 pezzi può minacciarne un altro, vuoto. In questo caso, l'unica difesa possibile davanti al pericolo è quella di riempire il buco attaccato. Se uno scomparto che contiene una sola pallina è minacciato da un altro colmo, si può aggiungere un'altra pallina al buco vulnerabile per bloccarne la cattura. Se si trasferisce la pallina unica nel buco successivo, l'avversario sarà in condizione di catturare almeno due pezzi nello scomparto rimasto vuoto. Quando si gioca con un buco molto pieno, bisogna stare attenti e scegliere il momento migliore per fare uscire i pezzi e studiare ogni scompartimento del gioco prima di muovere. Ci sono parecchie possibilità di catturare alcuni pezzi con un buco pieno. Il gioco si trascina per un certo tempo, quando in gioco sono rimasti non più di 6 o 8 pezzi. Per quanto i giocatori abbiano la possibilità di prendere le palline che restano dalla loro parte e di chiudere il gioco, le ultime palline possono dimostrarsi essenziali. La strategia consiste allora nell'accumulare tutte le palline dalla propria parte in modo che nessuna di esse possa passare all'avversario. Addirittura, mentre si gioca, quelli che assistono al gioco partecipano al gioco, nel senso che commentano le mosse di ogni giocatore, addirittura ovviamente il giocatore deve fare la mossa che aveva intenzione di fare, però tutti quelli che stanno attorno a loro gli dicono guarda è meglio fare così, è meglio fare così. Sì. Beh, c'è una partecipazione al gioco che è incredibile secondo me, cioè io non ho riscontrato in altri giochi, non l'ho riscontrato insomma. Poi ai giocatori stessi, non è che stanno là in silenzio a pensare la mossa, come per gli scacchi per esempio, ma si prendono in giro, scherzano. Sebbene è un gioco che assomigli formalmente più agli scacchi, assomiglia un po' più alle carte come spirito, diciamo. Sì, è esattamente così, sì. E non so, il 3-7 è famoso, appunto, no? Appunto, il 3-7 è un gioco dove se scopa. Non si parla non si può giocare. Infatti non ci si diverte neanche alla fine. Sì. Ecco, volevo chiederle a tal proposito se queste attitudini al gioco è una cosa che viene più... cioè che... se è una cosa che viene insegnata fondamentalmente, cioè se c'è un rapporto col gioco che ha più a che fare con questa, diciamo, senso di amicizia, sì, bisogno di stare insieme, ecco, se c'è un'idea del gioco che si avvicina più a questi aspetti qui rispetto ad altri posti dove magari il gioco è più vissuto come una disciplina. A me non risulta che venga vissuto come una disciplina, è un aspetto veramente ludico e basta, gioca per stare assieme, per divertirsi. E ovviamente forse è il caso di sottolineare il fatto che in queste culture, in queste zone, più che cultura adesso, c'è il problema di avere almeno un passo al giorno. Sì, quindi diciamo che quindi... il gioco diventa una roba di importanza forse secondaria, ecco. Sì, appunto, si gioca quando uno cioè, ha tempo per farlo, sì, oppure non ha un lavoro da svolgere, insomma. Sì. E quindi questo è collegato. In fondo si faceva anche da noi, forse secondo me si continua a fare. Chi si dedica al gioco viene considerato un fannullone, no? Sì. Per esempio, io parlo della Tanzania, ovviamente. Sì. E questo gioco spesso viene chiamato gioco degli anziani, gioco dei vecchi, perché sono quelli che hanno più tempo. Infatti. Bim bum bale giù! Questo è Bim Bum Bale Giù, io sono Francesco, siamo su Radio 110, la web radio dell'Università di Torino. Il dottor Nino Vessella, fondatore e presidente della Onlus Changamano, operante in Tanzania e autore del volume Il Libro Quasi Completo sul Gioco del Bao, ci racconta del gioco del Bao e dello spirito con cui si gioca Bao e della sua funzione socializzatrice. Ricordiamo che Bao e Wari rappresentano soltanto una variante della famiglia dei Mancala. Il gioco potrebbe essere lo Hus della Namibia, oppure il Bonespiel della Germania, oppure Kala ed essere un gioco statunitense rubato dalla tradizione namibiana e brevettato nel 1940, oppure Pallangusi dell'India meridionale, oppure Mandoli della Grecia, e potremmo ancora andare avanti percorrendo il mondo in lungo e in largo. Ascoltiamo però adesso la voce di Nino Vessella che ci parla dei Mancala e del Bao e più precisamente della storia della sua diffusione nel primo frammento e della sua diffusione attuale in Italia nel secondo, le ultime due parti dell'intervista che ci porteranno direttamente al termine della nostra trasmissione. Il Mancala in generale, cioè i giochi di Mancala sono diffusi dappertutto dove sono arrivati gli arabi e gli schiavi. In Europa, diciamo nel mondo, io lo definirei euro-statunitense, è poco diffuso per due motivi secondo me. Il primo è che inizialmente questo gioco è stato sottovalutato, cioè si pensava che fosse un gioco di popoli primitivi e quindi banale, non interessante. Tanto è vero che in un testo ho trovato l'affermazione di un missionario che stava nel Gabon, e descrivendo il gioco che facevano i locali, un mancala locale, concluse dicendo che questi africani non sono capaci di prevedere lo sviluppo del gioco, invece se un bianco avesse imparato questo gioco li avrebbe sconfitti tutti, e quindi questo è praticamente stato un pregiudizio che ha impedito a mancala, secondo me, impedito a mancala di andare fuori dal le zone occupate da arabi, schiavi. È cominciato a diffondersi un po' verso 1800, cioè fra il XIX secolo, e poi soprattutto in Europa, anche negli Stati Uniti veramente. E si inoculano più i matematici oppure persone antropologi che vogliono cercare di capire che c'è dietro il gioco, più che il gioco stesso. Ci sono per esempio studi di psicologia sul gioco, oppure studi di matematica su questo gioco, ma questi che hanno fatto questi studi effettivamente non sanno giocare realmente, insomma, conoscono le regole, se poi fanno simulazione col computer, adesso col computer fanno simulazione di partite, sì, per vedere come, per esempio, come si può risolvere, ma loro non hanno mai giocato o hanno giocato raramente. Bim, bum, bale, giù. No, in Italia praticamente sono stato io a cominciare a diffonderlo praticamente con metodicità, cioè ho cominciato, poiché come associazione Ciangamano vogliamo anche far conoscere la cultura del paese dove lavoriamo e poiché riteniamo che il gioco faccia parte della cultura, abbiamo cominciato a farlo conoscere questo gioco e quindi un po' alla volta, ormai sono dal 2005-2006 che abbiamo cominciato e ormai in Italia ci sono parecchi giocatori di Bao. Il problema è che sono tutti isolati. Allora abbiamo fatto un sito che si può giocare, dove si può giocare online e quindi grazie a questo sito siamo riusciti a mettere in contatto giocatori praticamente di tutte le parti del mondo che tramite il sito giocano e si sono incontrati. Abbiamo organizzato anche 3 tornei internazionali, uno lo organizzeremo quest'anno a Roma, in Olanda. Ma io chiuderei con questa domanda qui, che riguarda più, diciamo così, l'Italia, ma l'Italia delle persone che non sono italiane. Nel senso, viene giocato questo gioco? Io penso a Torino, non so, non mi stupirei trovare della gente che gioca a un Mancala in Porta Palazzo, diciamo. E non li ho mai visti però, e le volevo chiedere se lei invece sa se queste cose succedono, no. O se c'è incontro, no, per questo tipo. Purtroppo no. No? No. A per Torino, gli stessi problemi della Tanzania? Ma non so perché. Intanto perché, vabbè, è ancora poco noto. Sì. In Italia è più facile trovare giocatori di Awele, in Mancala 2x6. Sì. Quello è più diffuso. Sì. Però certo, insomma, non si trovano in piazza oppure. Addirittura la cosa più strana, almeno più strana, anche qui dipende dal fatto che insomma quest'anno ho bisogno di lavorare, sì. Gli immigrati in Italia, sì. Gli immigrati dall'Africa, è difficile coinvolgere. Per esempio io sono in contatto con un'associazione di tanzaniani che immigrati in Italia, non sono mai riuscito a coinvolgere in un torneo oppure in un incontro di Bao. E questo è molto strano. Perché pure loro hanno problemi, diciamo, economici, sì, di, a cui insomma, pensare. Hanno altre più importanti a cui pensare, sì. O più urgenti, insomma. Bim bum bale giù! Radio 110, Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di Mancala, uno dei giochi più diffusi al mondo, in particolare in Africa e in Asia, in compagnia di Nino Vessella, autore del volume Il libro quasi completo del gioco del Bao, studioso di lingua e letteratura swahili, fondatore e presidente della Onlus Ciangamano, attiva in Tanzania. Abbiamo visto, parlando di questo gioco, che nonostante l'aspetto elementare e la sua relativa semplicità nella preparazione, esso svela una difficoltà non indifferente, tanto da volerci un computer per risolvere il rompicapo che si nasconde dietro l'articolata struttura di gioco. Nel 2002, presso la Libera Università di Amsterdam, furono considerate oltre 889 miliardi di posizioni di gioco e il finale di questa simulazione di partita perfetta risultò in un pareggio. Il risultato del test fu però contestato perché utilizzava un set di regole diverso da quello utilizzato nelle competizioni internazionali. Di questo e altro ci sarebbe da approfondire sull'argomento, ma il tempo a nostra disposizione termina qui. Ringraziamo Elena, Laura e Pablo alla voce e Carlo alla regia. Io sono Francesco. Ricordiamo le pagine web www.110.unito.it e cosigiocalmondo.blogspot.com, dove potrete trovare approfondimenti e i podcast delle puntate. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre il mercoledì alle 20, sempre su Radio 110. Buonasera. Avete ascoltato? Bim bum bale giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim bum bale giù, così gioca il mondo. Yeah.